Sì, c'è qualcuno in ascolto? Di voi ci sia, ci sono io me stesso, e forse c'è Natalino. Natalino, ho sentito, chi c'è anche Natalino, ha detto? Può darsi. Ah no, pensavo che ci vorrebbe, tutto a posto? Tutto a posto e niente in ordine, come sempre d'altronde. Giornate strane, sembrano belle però c'è molto freddo. No vabbè, oggi è già una bella giornata, già fatto caldo, domani c'è il piccolo, il caldo, poi domenica pomeriggio un pochettino, qualche schizzata di acqua, e lunedì dovrebbe piovere, almeno ho visto le previsioni più o meno. Questa settimana non mi ha fregato, l'erba è cresciuta, l'ho lasciata a noi, così si impara, se no diventa, insomma, mi è capitato, non mi ha presa. Ma non hai pensato a utilizzare il disormante tu? No, di quella roba non entra. È poco tossica, poi con la falda acqua che abbiamo anche sotto. Così c'è l'arena. No, la capisci? No, vabbè, ci sono dei disormanti superficiali, no? Che non c'erano in profondità, diciamo, cioè sono tanti tipi, sono quelli altamente tossici e quelli che rimangono sopra in superficie. No. Lascia perdere, mi tengo volentieri l'erba, guarda, perché chi si occupava di quello, cioè una persona, un chimico, mi ha detto tieniti l'erba, che ci guadagni non sai quanto. Vabbè, naturalmente se c'hai delle falde acquifere è meglio evitare, se c'hai degli animali idem, se c'hai delle coltivazioni idem, ma se uno ha il bordo del muro che non vuole avere erba, gli dà una spruzzata di quello e non ti cresce più. No, ci sono animali di tutti i tipi qua, sono quelli a due zampe, quelli a quattro, quelli a tre, qualcuno anche a tre, l'ho visto. Quelli che volano, quelli che atterrano, di tutto c'è, cioè, proprio, abbiamo anche le voci se ti interessano, tutto quanto. Ho visto anche che ci sono delle galline che ogni tanto vanno a spasso, ma hanno anche paura dei cani. No, vabbè, diciamo, le cose chimiche è sempre meglio evitare, però se uno si è stufato di tagliare erba, perché cacchio, se in certi puzzi, tipo da noi, giù ai punti, cavolo, l'erba, non fai tempo a tagliare la settimana dopo di nuovo cresce. Ma non dipende dall'erba, dipende da questa, da questo tipo di stagioni strane che... c'è caldo, c'è freddo, c'è caldo, c'è freddo, ne sta risentendo tutto. Non ho sentito uno praticamente che non si lamenti perché le sta comprando la muffa alle pareti, proprio dovuto a questo sbalzo termico improvviso che si genera. Non parliamo di gente con dolori poi alla schiena, alle braccia, alle mani, guarda, è stato un anno orribile. Poi forse ci perché siamo anche stati più del normale dentro casa, magari li hai risentiti questi problemi. Io vabbè, grazie a Dio problemi non ne ho, però in qualche casa, in qualche abitazione qualcuno l'ha subito. Molte volte in queste case in campagna, in agro, cosa del genere, non hanno grosse, sono vecchi muri in blocchetti, per cui l'umidità entra. Tu una domanda, tu c'hai la condotta elettrica, idrica o sei autonomo? Tutte e due. Solo che quella idrica l'ho chiusa perché la panotte ne stava leggermente approfittando, al rubinetto chiuso arriva un bolletto stratosferico, infatti già è tutto registrato, per non sbagliare, no? Fotografato, autenticato e poi la pagano così. Sì, è veramente un macello quest'anno. Già lo so, scusa un attimino, arrivo dammi due minuti, già fa un attimo. Natali, cosa stai cenando? Cosa c'hai? Il monitor, mi vedi? Certo, già lo sai. sono una delle stazioni più tecnologiche che ci sono, non ho ambizioni di potenza, non ho ambizioni di cosa, però riguardo alla tecnologia, quella c'è. Buonasera, devo mangiare subito, sta preparando mia moglie per quella roba che devo fare io, purtroppo a quest'ora mi tocca mangiare, perché se mangio più tardi poi devo rimisurarmela fra dopo due ore che ho mangiato ed è troppo tardi. Sì, vabbè, non è Natale, sono cose che si hanno, purtroppo, perché cioè, quella ognuno la sua, pensiamo solo ai nostri nonni che nel tempo in cui quelle cose non c'erano e quindi erano destinati a non durare, ecco. Sono rientrato? Ciao Roberto. Ciao Tali, allora ci sei, ti ha chiamato Gianfranco un paio di volte. Ho acceso adesso perché sono... Stasera era l'ascolto ma non è entrato nessuno, allora ho spento. E ho riacceso adesso, sentite Gianfranco che mi chiamava. Ah, c'è il concerto a casa tua. Ah, la televisione. Sentito che poco fa infatti parlavamo di carta igienica. Cos'hai detto Gianfranco? A me è riferito... No, a Natalino, quando stavo parlando, ho sentito che c'era una pubblicità della carta igienica. Ah, così. Si sente tutto, Natalino, si sente tutto. Io, grazie a Dio, c'è una sala dedicata, una stanza dedicata alle radio, diciamo, qualche rumore si può sentire, ma deve essere molto molto forte per penetrare dentro questa stanza. Ma io lo stesso, c'ho tutto una zona, accessibile, però anche riservata, grazie ai rumori, sento solo il cane che abbaiano. E i gatti che miagolano. Quando è che c'è la propaganda davanti ieri? Ho fatto il collegamento in Melli, ma segnaloni anche quasi 9.25 arrivavano, Siracusa e Catania, ma fortissimi, c'era una popolazione bellissima, non era di quella esagerata, troppo larga, era abbastanza ridotto come campo di ascolto e di trasmissione, c'erano bei collegamenti in Catania, ma arrivavano una bomba qua. Sì, vi ho ascoltato anch'io. Scusa, mi aveva detto mia figlia, cosa hai detto Gianfranco? Che già li ho sentiti, anch'io. Era basso QRM e forte per spazio. Sì, infatti ho notato anche quello, era più basso del solito il QRM. Normalmente è il contrario, c'è probabilmente c'è il QRM, invece era una giornata particolare avanti ieri. Sì, poi non c'era, c'era fino a tardi, anche in alto. In alto c'erano portoghesi, non si può sentire anche americani che stavano parlando, insomma, c'era un po' di tutto. No, sinceramente sono da molto che non faccio ascolto nelle bande basse, diciamo. Bene, anche in quelle alte. Sì, io ogni tanto ci vado, ma c'è più che altro le mie frequenze preferite, capito? E poi me ne dimentico anche di una volta di ascolto, guarda, adesso con questa rottura di palle di un update di Windows, che gliel'ho fatto come volevo all'ultima cosa, e mezz'ora rompendo le scatole, porca la miseria, tutta la sera ci perdo, comunque, vabbè, è così. Natalia, riprendi tu. Sì, dai, sto cenando, là. Riprendo fra un po'. Ok, buona cena. No, invece ho ascoltato, a me piace ascoltare il broadcasting, ho ascoltato in banda FM 8808, stazioni un po' lontane, c'era un po' di, anche la Spagna si prendeva, poi c'erano un paio di stazioni che d'inverno è difficile ascoltare, e con 7000 neanche a parlare, comunque è stato ricevitore professionale, si riesco a tirare fuori dalla Corsica. Sì, anche ciò la cena. Su due apparecchie, no, dunque c'è qua, di qua non me lo ricordo se c'è, non sai, anche perché non è che proprio l'FM Questa arriva anche sulla banca. Quella della del digitale broadcasting, dai. 200 mega, qualcosa del genere. E al double, avanti qua. Ciao Gianfra, ascolta, mi dici come ti sto arrivando il segnale adesso che ho tirato sull'antenna, ho messo il tirante e tutto? 9.25 il sigla. Liscio, con 8 watt della radio. No, no, segnale, è ottimo, sei più forte di Gianfranco. Ma prima non ci arrivavo così liscio. No. Ascolta, guarda da così a così a vedere se è cambiato qualcosa. Certo che è cambiato, da 9.25 si è passato a 9.30 abbondanti, un peluzzino più su di 9.30. No, già va bene, dai, K, avanti Gianfranco. Sì, adesso nell'ultimo passaggio sei 9.20, tondo, su misurazione precisa. Aspetta che parla pure, che mi devo controllare se anche questo c'è di B. E io non sto facendo cose, ma sono andato solo per salutare, per vedere se il lavoro che ho fatto andava bene, eh. Ok, adesso sono veramente con 8 watt. Come ti arrivo Gianfra? 9.15. Va bene, fai due chiacchiere più che sufficiente. Va bene, continuate, rimane in ascolto, L'ultima cosa tra io invece, come rispetto a prima, come mi ascolti il segnale? Quasi 10 più. Quindi 9.20, adesso sì, quasi 9.30. Ok, va bene allora. Ok, va benissimo. Di nuovo Gianfranco, buon proseguo, se vuoi entrare siamo qua finché ne hai voglia di entrare. Vabbè, già sono in ascolto, sto facendo alcune cosette. Stamattina con mio vicino abbiamo tirato sull'antenna, abbiamo accettirato, abbiamo fatto tutto. Più di questo non faccio e non mi interessa. Ok, beh, a dopo se coincide. Ciao, grazie. Passa domani se c'è tempo, sino alle 10 ci sono. Domani mattina già devo scendere la stessa, ripeto, lo farò poi in commissione, dai. Va bene, ciao, vai Gianfra. Sì Claudio, dimmi anche a me quanto ti sto arrivando. Tu sei 9 più 10 prima di 9. Prima era 9, ma sono sempre lo stesso. 9 più 10, ma prima quando? Perché non ho toccato nulla. Ho la fossa levato sull'antenna, ho guadagnato io in ricezione e anche in trasmissione sicuramente. Ah, beh, sì. Qualche cosetta già te l'ha data. Ho capito, è meglio così, vabbè. Sempre un watt e mezzo comunque, lo strumento già li sai quelli lì. Io sto usando l'Elbex 482 con 8 watt modulati 10. Va bene, dai, a dopo. Vai, Robert, grazie. Ehi, allora ci sentiamo se coincide dopo di nuovo. Vediamo di nuovo Gianfranco, anche lasciamo un secondino di bianco se qualcuno vuole entrare, se no riprendi tu Gianfranco. Avanti chi vuole entrare. Vai Gianfranco. Sì, non lo stavo controllando. Sì, ma va in trasmissione, tanto. E l'ID non ho capito. No, questo non c'è dai, in parole poche. C'è tutto in trasmissione, tutte le misurazioni, però non c'è quelle in ricezione. In ricezione c'è solo il segnale da fino a 9.70, però di lì non ci arriva nessuno, solo le broadcasting. Ma su che banda stai parlando? Non ho capito. No, di qua. Di qua, come segnali, come segnalatore il segnale, questo digitale. C'ha quello digitale, però rispetto ai soliti che vediamo è molto dinamico, anche quando moduli è tipo di stereo, preso una volta, no? Che c'hanno la scala che sale e scende. Ok, dimmi un po' di ricevitori analogici, cosa c'hai tu? Analogici? No, non ne ho più analogici. E l'ultimo residuato bellico che avevo, che era una radio molto calda, molto bella, tutto quello che vuoi, però era vecchio. Che tenevo giusto per passione è stato l'ICR71E che faceva solo le HF, però quello sì, e non c'aveva l'FM perché credo che fosse opzionale, però siccome c'aveva quelli soffrono di batteria tampone, avevo sempre paura che un bel giorno se si scaricava poi l'apparecchio perdeva tutto quanto, nel senso che poi anche mettendo la nuova lo dovevo mandare in continente a reinstallare il software, quindi troppo rischioso tenerlo oltre, capito? Ma credo, se tanto è derivato da 7000, è la versione limitata rispetto a 7000, che non siano batterie a tampone, diciamo, tipo quelle del TV che tengono la memoria, sono degli accumulatori a tampone, per cui sono eterni, durano decenni con le batterie lì. Di eterno in quel campo non c'è niente, molti che non sapevano cosa fare, c'è ancora la batteria, era a terra in qualche modo, hanno attaccato anche per un millisecondo, via, tutto azzerato, perché non c'ha una memoria di quelle che si programmano, tipo i PIC, eccetera, ma c'è una cosiddetta memoria volatile, quindi stacchi per qualsiasi motivo, o le manca la tensione a causa di qualche problema, per qualche millesimo di secondo, fatto l'apparecchio, muore. Non ho fatto cosa se tanto uno avesse questo piccolo difetto che può essere grande, per cui lasciamo perdere. Ok, no, stavo dicendo, con l'altro ricevitore, con 7000 che viene considerato un ottimo ricevitore, però c'ha dei limiti, lo devi confrontare con l'altro che ho, che è due volte come dimensione, però è uno strumento di misura da laboratorio, che fa da 0 a 30 e più fa da 88 a 108, ma c'ha una sensibilità, a parte la sensibilità, la selettività di questa radio, cioè tu c'hai una radio forte qua a 103,1, l'altra è a 103,150, riesce a tirartela fuori anche se un segnale è molto, ma molto selettivo, poi non parliamo di sensibilità, di fa 10 a 0, e 7000 posso dire che è un buon ricevitore, confrontato ad altri giocattolini tipo la R3000, io ho la R3000, è ridicolo confrontato al 7000 proprio, ma quello là dove il licom è muto, cioè proprio non senti niente, perché senti quel REM e l'altro te lo tira fuori, poi c'ha un preamplificatore da, mi sembra, 10 dB ti tira, ma veramente funzionale, qui c'ha tre attenuatori, per dire, quando ci sono segnali furti, c'ha attenuatori da 10, da 20, da 30 e più, di poi aggiungere altri 20 dB regolabili, proprio uno strumento laboratorio, ma c'ha una sensibilità spaventosa, cioè io rimango a bocca aperta, ho fatto dei raffrontamenti, io ho le antenne collegate insieme ai due ricevitori, ma tu devi vedere, quando attacchi quello, se ti da muto, senti solo quel REM e quello ti tira fuori, la stazione è pulita, limpida, senza di disturbo. Ma hai detto il 3000, il 3000 A, quello col frontale inclinato, che credo che fossero grigi, anche se qualcuno era nero, non lo ricordo male, che io mi ricordo che ce l'avevo quando ero molto giovane, però quello è uno scanner, non è neanche un ricevitore. In HF è proprio penoso. Ehi, adesso con digitale, io ho una radio, insomma te l'ho detto, una di quelle che piccoline che l'ho preso, a parte Malachite, c'è anche quello lì, che è quello con l'adattatore di spettro e tutto, eccetera, eccetera. Se lo puoi interfacciare al display, piccolino, a 3 pollici e mezzo e più lo puoi attaccare al computer. Però c'ho questa radiolina, io mi sono spaventato la ricezione, c'ha DSP incorporato, ma cosa riceve con un'antennina cagata che neanche volevi, c'è un'antenna di 15 cm. C'ha una ricezione, spaventosa. Ho fatto le prove, attaccare l'antenna esterna è allucinante cosa... E poi c'è anche l'indicatore in decibel, decibel e metro di BM, ma guarda, sono rimasto stupito a bocca aperta la sensibilità di questa radio. No, io ho tutto, oramai ho tutto SDR, da non confondere, che quando parli di SDR subito confondere le cavette, in realtà no, non è esattamente così. SDR è importante, diciamo, quello serio, c'ho anche un radio che è una radio formidabile, si controlla sempre lui, Emmy, controllo di banda, ma quello controlla proprio la banda, nel senso che controlla da uno, credo, fino a da 1 fino a 50 MHz, se non anche qualcosa in più, poi volendo c'è un convertitore, ma no, non è il caso, ecco, che lo porta credo a 3000 e oltre, perché è costosissimo, sono un accessori, costano uno sproposito. E questo praticamente nel caso utilizzi un'antenna molto scarsa, perché se utilizzi un'antenna grossa nel grafico da 0 a 30 vedi un'onda enorme, che sono tutti occupati, ma se metti una penna a casa e c'è qualcuno che parla che ne so, in città, immediatamente te lo individua su qualunque frequenza vada. Ma è notevole, sono degli apparecchi buoni, ne ho avuto due, uno era anche VHS, però purtroppo il fulmine me l'ha fatto fuori, mannaggia, perché sono sensibilissimi, è una cosa pazzesca, solo che hanno necessità del computer, però è notevole. Usavano le ambasciate per fare spionaggio, si mettevano in batteria. Gianfranco, secondo il telefono, un attimo di bianco. Ok. Sì, come Gianfranco, scusa, mi ha chiamato, mi ha affilato il telefono. Tra l'altro, se non ho sentito di nuovo questi colpi di portante, ma non ti facevano niente, però li ho sentiti. No, ripeto, ormai il coso digitale con questi sistemi digitali di manipolazione di segnale, puoi fare quello che vuoi. Io ho due addirittura, uno l'ho preso da poco, una uomo professionale, però misurato del campo con l'analizzato rispetto, quello ti dà tutte le immagini, tutte le forme di segnali, da 2 megahertz fino a 2150, tutta la barra, la cosa, e poi ne ho un altro più piccolo della Promax, quello in bianco e nero, però sono di quei strumenti per allineamento antenne, parabole e cose, però c'hanno un bel analizzatore di spettro e più c'hanno un sacco di altre informazioni, ti danno sui segnali, proprio lavori nel senso, ti dà tutte le informazioni classiche per fare gli allineamenti, soprattutto per il digitale, che ci sono delle informazioni molto importanti per avere il massimo del rendimento dell'impianto. Sì. No, io credo di arrivare intorno ai 3.000 come ricezione, però già lo sai, oltre iniziare dai 1.000 se non c'è antenna non vai proprio da nessuna parte, è come avere PL attaccato e basta. Poi col cavo non devi contare con il contagocce, quindi è una ricezione un pochettino complicata. Ancora qua, proprio riguardo a ciò, un amplificatorino che avevo preso dell'anno Nortec, questo cos'è? No, come diavolo si chiama questa marca? Ah no, è della No Elecom, con SMD, sicurissimo. È alimentato sia in antenna sia separato. Devo procurare una scatoletta e la devo ancora piazzare perché mi serve per l'immarsa. Sì, no, anche io, però il satellite non tanto per le radio e per le TV lo utilizzo, adesso devo salire su a fare la manutenzione all'altra parabola, perché ogni tanto con questi attuatori bisogna metterli in ordine, adesso lo devo smontare, pulire, farlo funzionare staccato dall'antenna, così mi ricalibro tutto l'impianto. Lo volevo fare anche, ma non è avuta, onestamente. Io c'ho su, no, non è in alto, perché l'ho tolta la radice perché era troppo impegnativa, a parte poi anche le perdite, quindi l'ho messa qua sopra ed è l'antenna radar DSB. Deve essere, magari c'è qualche problemino di corrosione, non sta rendendo come dovrebbe, quindi la volevo rifare, c'è da rifare il cavo, tutte quelle cose lì. Ma onestamente funzionò, non ho voglia, è tutto per ricevere solo gli aerei, è questo. Non lo so, ma sono un appassionato, piano piano, io devo ancora montare l'altra antenna, c'è una 4 livelli, mi hanno dato un coso, un relè coassiale, come si chiama, per comandare 5 antenne della Ameritron, lo stesso, da collegare, a fare, non ho tempo di niente, non devo finirmi altri lavori che mi interessano di più e non ho neanche tempo per fare quelli lì, però cazzo, devo farlo, perché sennò se non si fanno manutenzioni è un problema, soprattutto con la parabola, adesso d'estate si fanno, d'inverno non c'è tempo perché piove, c'è maltempo, ma vanno fatte, se no ne avrò cambiato almeno 5 di attuatori e se non li fai le manutenzioni ti tocca comprarne un altro nuovo. Ciao a tutti, Giallo Piorù. Picca, che ti sento malissimo, la Giovanna non ti riconosce. Come malissimo? In che senso? Sembra una voce troppo metallica, non ti avevo riconosciuto. Boh, sempre lo stesso microfono sto usando, Forse sei un bel amplificato, vabbè, rispetto a Gianfranco, forse mi hai spaccato il timpano. Gappa. E vabbè, sono faccio per salutarvi. E io ogni tanto entro, ma non è che abbia molto tempo. Sì, allora ogni tanto qualche sera già ci sentiamo qua, c'è sempre più o meno Gianfranco, qualche altro è entrato, qualche problemino di portata, ma in linea di massima già riusciamo a farci la chiacchierettina serale. Ok, c'era un attimino Natalino però stava mangiando, poi c'è entrato Claudio, sta facendo delle prove e basta, mi sembra non ci sia nessun altro, ti faccio salutare da Gianfranco e poi lasciamo un attimo di bianco se qualcuno vuole entrare. Avanti Gianfranco. Sì, ciao Gianni, ben ascoltato da un po'. Sì, confermo quello che ha detto Roberto, sei strano di radio, sento moltissimo i sottofondi, scusi, come sta facendo un microfono di quelli, come si dice, guarda, tipo microspiami, che ascolta tutti i rumori ambientali possibili e immaginati. Ok, niente, lasciamo un po' di bianco, vediamo se senza qualcuno. Dai Gianni. Probabilmente è qua perché c'è musica, la pizza, stanno cantando, quindi per quello. Ah sì, festa di quartiere o festa di paese? No, noi ce l'abbiamo di abitudine. Ogni sera ci accendiamo il karaoke e ci sfoghiamo così cantando, ci piace. No, vabbè, è una bella, un bel vizio sano, dai, l'importante è non esagerare con le bucce, cioè chi ti fu di neve anche a colpo di manganello i vicini. Quando pagano i debiti che c'è nel condominio possono anche protestare. Quando pagano i debiti il condominio possono anche protestare, per il momento no, perché non stanno pagando il condominio già da un bel po' di anni. Vabbè, ma se lo fai la notte quando qualcuno sta riposando o dopo pranzo ti rompo le scarpe. Beh, naturalmente io lo faccio in orari dopo le 6, sto fino alle 8 e via, basta, tutto lì, 8, 8 e un quarto, qui spengo tutto. Sì, no, sto scherzando naturalmente, ma c'è gente che è capitato più di una volta di vedere a volumi esagerati. Io sono di quelli che ascolta a volume molto ma molto alto, però c'ho una stanza abbastanza insonorizzata che lì non posso dare fastidio, anche se da due palazzi vicino qualcuno ha telefonato, ma c'è cosa all'acquedotto, concerto all'acquedotto. Cosa c'è messo? I cartoni delle uova per insonorizzare? No, non c'è niente, ma l'ambiente è talmente grande e dispersivo, dai, ci sono 50 metri quadri in una sala, e per cui no, ho fatto delle prove, non posso alzare io oltre metà, perché se no ho casse ad altissima efficienza, sensibilissime, per cui bastano 3-4 watt e ne butto in terra al palazzo, però così a livello di divertimento ogni tanto do una sollevata, però la musica la devi ascoltare al volume suo naturale, cioè gli strumenti secondo me vanno ascoltati al volume naturale, perché la batteria col volume, la chitarra col il volume, poi esagerare un pochettino naturalmente, però senza distorsione, perché tu puoi avere anche 5 watt o 500 watt, se c'è distorsione con 5 watt è fastidioso, la musica deve essere pulita, neutra, senza nessuno artificio o cose strane, e poi grazie a Dio quell'impianto dove ascolto è abbastanza, diciamo, a quei limiti lì. Poi c'è un altro per divertirmi, di lì non me ne frega niente della qualità, anche se quello è discreto, anche quello come qualità. Diciamo che se ascolti certi tipi di musica il volume bisogna alzarlo, tipo AC/DC come ne ascolto io, quello ti fa uscire in testa. E tu Gianfra, musica che ci dice, c'è impianto di che livello? No, non a livello computer e basta, no, sono molto pario come musica e quindi non ho bisogno di casse eccetera, anche perché poi mi dà fastidio l'udito, non la musica troppo alta, perché con l'udito molto molto allenato praticamente sento ogni minimo rumore, e allora sono sempre con volumi abbastanza bassi, così come la voce è sempre abbastanza bassi, anche abbia anche la possibilità di costruirmi io gli amplificatori e preamplificatori, però non mi piacciono tanto, dai. Perché? Avanti. Ok, ciao Gianfranco, ciao Roberto e ciao Gianni, buonasera a tutti. Sì, state parlando di musica, bel argomento. Io una volta ho parlato con uno che di musica se ne intende veramente, e a casa sua avevo fatto l'impianto serio con gli altoparlanti in basso, praticamente quasi per terra, e non sarebbe sbagliato secondo un concetto appunto musicale, perché il suono tende a salire, per cui non so se aveva torto o meno, comunque ha fatto così, lui mi ha assicurato che il sistema quali incroci eccetera eccetera di altoparlanti eccetera. Vai Roberto. No, tenete presente che vabbè, qualcosa la posso dire sulla alta fedeltà, sulla distribuzione sonora. Le frequenze basse, più basse sono e sono omnidirezionali, per cui le puoi mettere anche attaccate al muro, girate, non c'è un problema. Mentre le frequenze più sali di frequenza sono più direttive, per cui gli acuti le devi indirizzare nella direzione di ascolto, in questo caso dell'orecchio, non vanno mai messe in basso, sempre nelle parti alte, se no tutte le casse hanno le frequenze dai midi in su, sono sopra i woofer. Però un subwoofer lo puoi mettere anche in terra, nascosto. Non te ne frega niente, non, anche se tu non lo vedi il coso del basso lo senti, l'acuto se non ce l'hai orientato non lo senti, lo attieni parecchio. Ok, facciamo salutare a Gianfranco, a Gianni e a Giulio, avanti. Sì, ciao Giulio, ben ascoltato, un po' assente forse, stai guardando il cipismo. Buona serata, ben entrato, ti mando avanti Gianni, a te. Ciao Giulio, vai. Roba, io ogni tanto mi ascolto musica d'ascolto proprio da sotto, mi ascolto gli America, mi ascolto anche i Toto, gli Abba, tutte queste cose qua che a me piacciono tanto, tutte queste musiche qua di vecchia era, me le ascolto. Diciamo che secondo che musica è, io la tengo in sordina e mi rilasso così, magari con il telefono in mano e praticamente ascolto la musica, per rilassare. E vabbè, comunque dai, già è bello ascoltare musica, cantare, a me piace tanto, poi non so se gli altri sono d'accordo, io a casa sono tre karaoke, non aggiungere. E allora riprendo io. Ciao Gianni, di nuovo. Sì, beh, certo, sentire la musica è anche importante, secondo me, perlomeno che per chi è appassionato, poi a chi non interessa è ovvio, non interessa e basta. Sì, sicuramente così. No, io quando ascolto musica ascolto sempre musica degli anni 60, 70, perché io ritengo che sono le migliori canzoni in assoluto. Oggi la musica di oggi non mi piace, perché io penso sempre, e l'ho detto già da un po' di tempo, oggi non ci sono più né canzoni come si deve, cioè non c'è poesia, è tanto meno cantanti che mi sanno cantare. Oggi ci sono questo genere, soprattutto con il rap eccetera, per me è schifoso e io quello proprio lo scatto proprio a priori. Comunque è così, dai, mi piacciono le canzoni melodiche, vabbè, le sacco io, la sapete, per cui non c'è da meravigliarsi se mi piace quel genere di musica. Avanti Gianfranco. No, mi sarebbe meravigliato se ti piaceva il rap, quelle cose del genere, o queste canzoni che ci sono adesso. E così. Sì, volevo aprire un piccolo break a proposito che mi è venuto in mente, dato che siamo in tema di musica, e quella famosa radio che vi dicevo, Radio Charleston eccetera, trasmette praticamente dalla Germania vicino a Francoforte. Io ero convinto che fosse americana, perché tutte le frasi che parlavano in americano, lo slang eccetera, però il segnale non mi ha mai convinto, quindi facciamo una ricerca specifica, è una stazione che in Germania trasmette solo ed esclusivamente musica degli anni 20, 30 e così via. Ok, riprendi Roberto. Sì, viene ripetuta, sì, ma non so se sia ancora attivo, è un paese della Spagna, un paesino di 2000 abitanti, forse neanche, c'era una delle più potenti stazioni spagnole, per non dire la più potente, ripeteva proprio Radio Charleston americana, e in origine era una stazione americana, poi anche a Germania probabilmente ci sarà un ponte di ripeto, ormai con satellite fanno quello che vogliono, ma quella della Germania, della Spagna arrivava in diretta, c'era un'antenna ricevente e poi classico ripetitore. No, è diretta, è proprio tedesca, a tutti gli effetti. Ah, non è la Charleston americana qui? No, Radio Charleston è proprio una radio tedesca che però è esclusivamente dedicata a queste musiche che quando le sento mi fanno molto ridere, perché mi ricordano immediatamente San Leulio. Oppure quando c'erano lì, adesso non mi viene l'attore, quello che faceva sempre il gangster, in tutti i film anche bianco e nero, che poi andavano nel night e c'erano queste ballerine con quel berrettino che si scatenavano. Devo dire anche molto di più di adesso, perché quei balli lì erano proprio frenetici, dai. Tipo tic tac, cose così. Io qua non so cosa mettere, accendo Alexa e mi faccio mettere la musica che voglio. Ma voi ascoltate, se vi capita di ascoltare Low FM, io l'ascolto spesso, veramente molte volte la sera quando sto facendo qualcosa, sono tanto dove c'ho la radio qua, i trasmettitori, e me la metto di sottofondo, ma da bella musica, non è qualche pezzo magari, ogni tanto c'è qualche pezzo italiano, cosa del genere, però la musica internazionale è passata pure. E poi c'è la radio Nostalgia, che l'ascolto spesso, che arriva da Iaccio, su 93, allora musica solo vecchie, l'unico problema è che da molta musica francese, molte non mi piacciono, però da un sacco di musica dagli anni 60 sino agli anni 80, qualche pezzettino fine anni 80, però normalmente musica 70-80, da, è la bellissima musica, qualche pezzo molte volte italiano si sente, loro ogni due brani, due o tre brani in francese ti danno un brano internazionale. Ed è quello che non seguo io, vabbè, la musica straniera non mi interessa, la verità, devo dire, sarà bella quello che vuole, non ci sono dubbi, sicuramente è bella, ma a me non piace. Io ascolto la musica italiana, ascolto, l'unica musica straniera che mi ascolto è la musica francese, che basta, niente di più. Quella mi diverte proprio, la melodia, il ritmo della musica stessa, quella mi piace. Ma tutte le altre a me non me ne frega niente, dell'inglese, del francese, di qualsiasi altra lingua, al fuori di quella italiana. Io sono fatto così. Vai, Giappa. Ognuno ha i suoi gusti, poi in quei settori si è fortemente influenzati dall'età, poi dalle varie dalle esperienze che ha avuto, eccetera. Quindi io sono l'epoca di Lucio Battisti, ad esempio, mi piacciono tutto quel genere di che hanno fatto praticamente. Hanno esaltato al massimo la musica italiana, non qui prima, forse di meno, perché c'era la musica, quella che piace a Giulio, probabilmente la musica melodica, e ancora prima Beniamino Gigli, quelle con Malena, che poi hanno anche rinnovato come musiche, insomma ce n'è, però erano dei grandi anche. La nostalgia è un po' della radio, di quelle che si sentiva, sembra strano, però che si sentiva il QRM, no? Voi ricordate le radio che quando trasmettevano anche a causa delle riproduzioni dei dischi, perché allora usavano proprio i dischi, no? Collegati al microfono della radio, si sente di sottofondo micidiale. E quelle erano divertenti le radio. Adesso in HF c'è questo di Digital Mondial Radio, che trasmette con basse potenze, però è praticamente stereo, è una radio un po', come si dice, asettica quasi, dai, anche se la fedeltà è assoluta, però è asettica, a me non posso ascoltare, ma non è che mi piace più di tanto. Riprendi Gianni. Vabbè, io c'è una canzone che mi piace particolarmente, Alleluia, è una canzone che a me mi tocca il cuore quando la sento. Di quella di cuore o no, di chi? Di quella. Praticamente mi ricorda sempre quella ragazza di 19 anni che ha partecipato da Tussi Chiavales, che poi è morta, leucemia. Hanno fatto un sacco di varianti, quella più interessante, più se ti prendi più, quella di Cohen, Alleluia, quella l'hanno fatta in tutti i modi possibili e immaginabili. Anche in italiano l'hanno fatta. Sì, c'erano diverse registrazioni di quella lì. Quella di Cohen è perché la sua, quella che l'ha portata lui, quando con questa voce rauca di una persona anziana, sembra sofferente, che dà tutto in quella canzone lì. Cioè, bella canzone. È una canzone piena di sentimenti. Sì, guarda, io ne ho sentito un artista, l'ho sentito per sbaglio, però mi ha fatto venire i brividi a sentire la canzone di Coso, di Simon Garfunkel, The Sound of Silence, non so, una canzone famosissima, cantata da questo artista che, se tu lo vedi, fa musica rock, ma rock quello cattivo, di quelli strillando come un pazzo, e ha fatto una versione versando il Silence di Simon Garfunkel. È una cosa che ti fanno venire i brividi solo l'intensità e la forza che ci mette, è questa, ma con tutte le cose, le corde vocali che li senti strapparsi dalla gola, una cosa spaventosa. L'ho sentito per sbaglio, infatti ho detto col programma Shazam che ti riconosce le canzoni, subito me la sono scaricata, detto, questa la me la devo mettere sulla pennina perché è troppo forte, tipo Joe Cocker, non so se ve lo ricordate, un genere tipo Joe Cocker, una voce rauca, raschiata, però 10 volte più forte. Mi è rimasta impressa con la canzone. Avanti di nuovo a te, Giulio. Certo, ognuno ha i suoi gusti e chiaramente è giusto così, ci mancherebbe altro, bisogna rispettare i gusti di chiunque. Sì, ma io devo dire anche che non disdegno nemmeno la musica sarda, a me piace anche la musica sarda, ma anche la musica sassarese quando è cantata bene, però diversamente poi ci sono certe persone che non sanno cantare, allora quelli proprio li scarto proprio, però la musica sarda mi piace ugualmente, la melodia mi piace, l'armonia della musica stessa, nonostante che musica sarda, fatta chitarra, eccetera, eccetera. E mentre invece non mi piace molto quella cantata in poesia, sai perché non mi piace, ma non perché non sia bello il modo di cantare, no, non quello, perché purtroppo io non capisco la lingua sarda e per cui non riesco ad apprezzarla più di tanto, però la melodia, diciamo che anche quella non è male. Io sono vecchio, dunque ho quelle idee e quei gusti. Vai, Gioffa. Sì, io invece mi ricordo una canzone che è Anima Mia dei Cugini di Campania, se non ricordo male. Io ero piccolo, cioè non molto piccolo, ma ero piccolo. E mi ricordo che questa canzone, non vorrei sbagliare, era stata fatta perché all'epoca due ragazzi avevano fatto, cioè praticamente si erano suicidati, si erano uccisi, prima uno e poi l'altro, credo che una fidanzata e poi il fidanzato dalla distrazione, una sorta di Romeo e Giulietta praticamente. Non so se ve la ricordate. Scusate un attimo, cosa hai detto? Sono rientrato. Cosa hai detto? Che canzone? Ripeti che ero disattento, mi hanno chiamato. Non è Anima Mia. Sei sicuro? Anima Mia, Anima Mia dei Cugini di Campagna, non è quella? No, non è quella lì. Quella tu stai dicendo, Iorio Luzzini e Ettore Angiuri, io addirittura l'ho visto anche quando si è buttato. L'ho visto giù dal ponte a lui. Lei era morta di leucemia, lui si è buttato perché ha detto che se non si salvava si buttava anche giù dal ponte. Non mi ricordo il titolo, però non è Anima Mia. Anima Mia, torna a casa tua, ti aspetterò, non pensi odiare queste mura, non c'entra nulla. Non è quella lì. Quella dei Cugini di Campagna non mi ricordo come il titolo, però non è quello. Sì, il titolo è quello, Anima Mia dei Cugini di Campagna. Io mi ricordavo quella lì, però ripeto, sono passati tanti di quei anni che non posso dare un giudizio veritiero, ecco. Mi ricordavo questa cosa comunque di quegli anni, negli anni 70, di questi due ragazzi molto giovani che avevano fatto questa cosa qua. Riprendi, Roberto. Io di musica italiana moderna assolutamente, rarissimo qualche pezzo, cosa del genere, ma raro proprio, e puoi vedere uno, ascoltare uno massimo due all'anno di qualche pezzo interessante, non dico bello, interessante. Mi sono fermato al periodo dei cantautori e basta. Dopo i cantautori non c'è stato quasi niente, secondo me, in cosa. Io ascolto prevalentemente musica internazionale, c'ho una grande collezione di dischi, ci avrò 3-4 mila titoli di dischi, poi non parliamo di altro. Prevalentemente musica internazionale, di roba italiana poco e niente, a parte cantautori che piacciono a me di un certo livello, per più che altro li prendo per sentire la qualità della registrazione e cose del genere, perché sono pochi i cantanti italiani che ascolto con piacere. Ho rivalutato, anche se prima non mi piaceva, nel senso non che non mi piacesse, non era il mio genere, di Andrè. Ho sentito una registrazione nuova, 3 CD nuovi registrati senza filtri, senza niente, ascoltando quella registrazione sembra un altro cantante, completamente diverso, l'hanno fatto una registrazione la moglie, perché lei si è battuta sul fatto che quando fanno le registrazioni sono sempre diverse le voci, con i filtri ci mettono un sacco di equalizzazione. Ha detto: io voglio la voce di mio marito Lurighezzi come è nella realtà. E se tu senti la registrazione di altissima qualità di registrazione senza tutti gli effetti, dice: cacchio, sembra un altro cantante. Io me la sono tutte riascoltate le canzoni, poi gli dico: Pablo, c'ha una bella voce, bella piena, cioè si sente diversa da quella classica che siamo abituati a sentirla. Sono tre CD di altissima qualità, me li hanno regalati e me li tengo custoditi proprio con piacere, perché sono veramente registrate bene. Mentre non piacciono a me i cantanti tipo Vasco Rossi, cose così, che la gente diventa scema, Ligabue, tutte queste qua, Piero Pelù, proprio assolutamente. Io mi fermo ai cantatori da Randuardi e Edoardo Bennato, che secondo me è il numero uno in assoluto come qualità musicale e come preparazione, poi Coso e Lucio Dalla, tutte quelle cantate, però non vado oltre, tutti quelli che sono venuti dopo lasciamo perdere. Avanti a Giulio, che lui probabilmente è di periodi un po' prima di me, lui parte dai tempi di Coso, di Claudio Villa e cose del genere, li apprezzo tantissimo perché hanno un'ottima voce, Gianni Morandi, non Gianni Morandi, l'altro come si chiama, Perdere l'amore, che lo faceva, Massimo Ranieri, quei cantanti li apprezzo per la qualità loro. Registrato il break. Ed è appunto quello che avevo detto un po' qua, io mi riferivo a quello, mi riferivo, perché per me i veri cantanti sono quelli di quell'era lì, e soprattutto le canzoni che cantavano avevano un senso, oggi invece non hanno nessun senso, oggi dicono solo cretinate quelle canzoni, soprattutto molto spesso parolacce, cose assurde da ascoltare, no, no, assolutamente no. Sì, certo, io appunto sono sempre stato un fan di Claudio Villa, non per niente ho tutta la collezione, Massimo Ranieri, De André, Modugno, tutta quella gente lì, gente che sa cantare, per cui non me ne vergogno, pensa un po'. E a proposito di De André, proprio stamattina sono passato proprio davanti a casa sua, sono passato, per cui, perché stamattina mi sono fatto una bella passeggiata lunghissima, ero a Tempio, e poi sono andato anche all'imbare, eccetera, eccetera, insomma ho passato una mattinata così, proprio per rilassarmi, anche se io non ho necessità di essere rilassato, perché sono tanto talmente tranquillo che non ho nessun problema di nessun genere, se non di salute, e spero di riuscire a eliminare anche quello, voglio dire, il problema che ho. Fino a questo momento sembra che l'ho eliminato, poi speriamo che non si deformi e poi sono tranquillo. Continuo a vivere la mia vita tranquillamente, eccetera, eccetera. C'è stato un break, scusate il passaggio troppo lungo, avanti al break. Ciao Lupo Grigio, salutoni, io ti stiamo bene, Santiago 9+5, e la radio è buona, buonissima. Io non so se gli altri riescono a sentirti, adesso ti mando avanti uno per volta, ma suppongo di sì. Avanti, Giofra, hai sentito Lupo Grigio, si trova qui alle punti. Per me neanche l'ombra, guarda. Se parlo un americano probabilmente lo sento meglio. Niente, perché c'è Monteoro, se lui è subito portatile non c'ha speranza da arrivare. Riprendi, vediamo un po' chi c'è. Gianni, tu lo senti? Appa, ciao Lupo Grigio, lo abbraccio, avanti. Appa, Santiago 6 qua, arrivi in Radio 5, dai, arrivi benissimo. Appa. Oh, ciao Roberto, aspetta, Roberto, Gianfranco ha detto che non lo sente. Gianfranco non ti sente, Lupo Grigio. Vediamo se ti sente Roberto. Roberto, vai. Allora, io lo sento in mezzo al QRM, però non riesco a capire quello che è. Sento che sta parlando, arriva Santiago 6, quasi 7, ma c'è il QRM intorno a quella cifra lì, per cui non riesco a capire quello che dice. L'altro giorno l'ho ascoltato, ma non è nel solito posto, non è qua con la Cappuccini. No, vabbè, ha detto che è qui vicino a me, agli punti, siccome il figlio si è trasferito qua, nella zona dove abito io, per cui lui quando va a casa del figlio si fa sentire da me, almeno da me si fa sentire, però ho visto che lo sente anche Gianni e non c'è problema. Gianni lo sente Santiago 6, dunque è già un discreto segnale e anche suppongo anche una bella radio. Avanti ancora Lupo Grigio, vai, Gianfranco non ti sente, Roberto l'hai sentito che cosa ha detto, per cui vedi un po' tu. Chiedile se è col gommino. Sì, è col portatile, non è che è un'antenna fissa, è col portatile, certo, è col gommino, certo. Gianfra, quella canzone è Preghiera di Cugini di Campania. No, quella non la conosco, Preghiera. Comunque, quella canzone è poc'anzi che l'avete citato voi, l'avete, anima mia, è per me una bella canzone, la verità. Anche, ad esempio, quel cantante lì quindi mi piace lo stesso, nonostante che ha la voce in falsetto, però è molto intonato e è uno che sa cantare in poche parole, indipendentemente dal timbro di voce che ha, che tra l'altro è originale e a me piace anche quella. Avanti di nuovo Gianni. Comunque la preghiera è quella dedicata a quei due ragazzi, quello che si è buttato la ponte perché è morta la ragazza, la conosci già, è quella che dice: Signore mio, non ce l'ho fatta più, Signore mio, senza di lei qua giù. Ah sì, adesso mi è venuto in mente. Però diciamo, se ascolti bene anche Anima mia e sulla falsa riga di quella, per quello che fosse le confuse, magari qualche altro. Roberto riprendi, comunque a me piace anche la, uno tra i preferiti in assoluto, diciamo Pavarotti ovviamente. Riprendi Roberto. Vabbè, qui stiamo parlando di un altro genere di cantante, dai, pochi che riescono a cantare a quei livelli nel mondo, non in Italia, nel mondo, pochissimi, proprio pochi. No, adesso ormai la musica che ascoltano i giovani è ridicola, cioè, sono parolati, molte volte infatti quando li sento, dico, questa mia figlia mi fa sentire questi, quello che è andato a Sanremo, che l'avrei, mamma mia, questo fa, cioè si rivolterebbero dalla tomba i vecchi cantanti dell'epoca, non andiamo a cercare Claudio Villa o Coso, o l'altro che ho nominato Massimo Ranieri, ma cantanti con un po' di voce si rivolterebbero dalla tomba a sentire queste schifette e basta. Non parliamo della musica, poi è ripetitiva, non c'è niente di originale. Prima molte volte ascoltavi la canzone anche per la musica, non dico con le parole, perché non è difficile scrivere le parole, come diceva un grande cantante, dice, non è la difficoltà di scrivere le parole, la difficoltà è scrivere la musica, di musicarla una canzone, perché chiunque può scrivere una poesia, però la devi anche musicare, come diceva sempre Ginetto Ruzzetta, che è un grande, secondo me il numero uno dei cantanti in sassarese, in dialetto sassarese, anche se ho scoperto che lui non è sassarese per niente, ho letto la storia di lui, sono rimasto a bocca aperta, che ho vissuto a Roma tanti anni, è venuto da grande, che penso che lo sappia poca gente questo, cercatelo su internet, sono rimasto scioccato, nel senso stupito della realtà di questo personaggio, anche se ha fatto la storia delle canzoni, e lui ha detto, la difficoltà non è scrivere le parole, è comporre la musica. Adesso vedi i ragazzotti che ci mettono, ci sono complici in sassarese, gruppiti, mamma mia, mi metto le mani in testa, a parte la tonatura, la voce brutta, eccetera, scrivono quattro fesserie per dire che è sassarese. Avanti a Giulio. Hola chicos, buonasera. Aspetta che c'è qualcuno, ha chiamato Roberto, chi ha chiamato Roberto? Sì, adesso ti ascolto Santiago 7, Lupo Grillo, poco fa in mezzo al QRM. C'è anche Antonio, che probabilmente Antonio ti ascolta meglio di me, ma anche Antonio per Lupo Grillo. No, l'ascolto, più bacio l'ascolto, non so come sia. Comunque buonasera a tutti, dai, io vado a mangiare, ci sentiamo dopo, ok? Saluto a tutti. Ok, ciao Antonio, ben arrivato, dai, siamo qua, tutto a posto, tutto tranquillo. Sì, adesso esci più forte come di segnale, adesso sei 9 più 15 qui da me, poc'anzi dei 9-5 o Lupo Grillo, per cui sicuramente ti sente, forse ti sente anche Gianfranco adesso. Tornando al discorso delle canzoni sassarese, sì, non hai torto, diciamo che Ruzzetta era praticamente il padre della canzone sassarese, è stato lui quello che ha promosso la canzone sassarese, perlomeno qui. Però c'è da dire questo, la timbrica è eccezionale, una voce proprio adatta, soprattutto per la musica sassarese, per la canzone sassarese. Però ha un modo di cantare che è un modo di cantare parlato. Io lo sento così, però è bellissimo, è apprezzatissimo da me e da un po' da tutti, sicuramente, non ci sono problemi. Poi naturalmente c'è anche l'altro, purtroppo il defunto Giovannino Giorgio, anche lui è un ottimo maestro canoro della musica sassarese, e ce ne sono altri, Gianni Paoleso, ce ne sono Giuseppe Manca, eccetera eccetera, e fra questi ci metto anche se sono di parte, ci metto anche il mio fratello, comunque ognuno ha i suoi gusti e va bene così. Avanti Gianfranco, l'hai sentito a Lupo Grillo che ha migliorato un pochino il suo segnale? Sì, dal giorno alla notte è cambiato. Adesso lo sento, lo saluto, infatti ciao Nicola, adesso va un pochino meglio, però avrei preferito che avesse non un gommino ma un'antenna di quelle telescopiche vecchia maniera. Sono sicuro che anche se sono molto ma molto più alte avrebbe, non avrebbe tutti questi problemi, ecco. Poi ti volevo dire chi c'era, che c'era di bravo, di bravo. Ah, il mio genere, c'è anche quella che aveva una voce spettacolare, che purtroppo non c'è più, che Maria Carta, ecco. Maria Carta, nell'Ave Maria, c'è un'edizione dell'Ave Maria di Maria Carta che è veramente formidabile, ad organo, quindi è stupenda quella. Riprendi, Roberto. Allora, riguardo di Maria Carta, vi racconto un aneddoto. Allora, io ho un cliente d'officina, una persona abbastanza conosciuta, non faccio il nome, però una persona in ambito universitario molto conosciuta. Questo è un ricercatore della voce umana, lui ha fatto un brevetto, una specie di brevetto, chiamiamolo, e lui lavora sulla voce umana. Sulla voce umana lui ti dice, a parte riconoscere se è maschio o se è donna, lui ti racconta anche la tua storia, nel senso, ti dice tu sei di questa zona, hai la tua famiglia, cioè ti racconta tipo un DNA della DNA, cioè analizzando il tuo DNA musicale. Infatti questo fai, DNA della musica, detto volgarmente, ti analizza la voce, ti racconta pure dalla tua famiglia c'è stato un gemello, ti dice, oppure ci possono essere, questo naturalmente statisticamente lo fa, queste cose qua. E mi ha parlato di Maria Carta, qua lui ha analizzato le voci delle principali personaggi a livello italiano, mondiale non lo so, però a livello italiano c'ha tutte le registrazioni, le prove di cose. Ho detto Maria Carta, il senso assoluto è quella che c'ha la modulazione, chiamiamo la modulazione, perché mi sto trampando le radio, nessuno si avvicina minimamente a Maria Carta, parte dalle frequenze, da quella frequenza non so quanto sia, che arriva sino a quanto arriva in alto, nessuna voce umana è riuscita, che ha sentito lui, è riuscita ad arrivare a come arriva Maria Carta. Dice una cosa spaventosa, dice, ma mi ha fatto nome e cognome, adesso mi ricordo di questi cantanti famosi, no? Non gente di adesso, parliamo di vecchi cantanti, ha detto nessun uomo, parliamo di voce umana maschile, riesce ad arrivare a quello che riusciva ad arrivare la voce femminile di Maria Carta. Io ho visto un confronto in un programma che lei stava agli ultimi periodi prima di morire con Andrea Parodi, che secondo me è il più bravo cantante a livello di voce in Sardegna, di quelli che ho conosciuto io, poi non so se ce n'erano altri. L'ha fatto 10-0, l'ha disintegrato, cioè cantando Non posso riposare, la stessa canzone insieme, l'ha annientato, cioè quando senti Andrea Parodi cantando Non posso riposare ti vengono i brividi. L'ha cantata insieme a Maria Carta, era come parto che metto a cantare io con un cantante professionista, due cose completamente diverse. Avanti di nuovo, chi vuole aggiungere qualcosa? Beh, io potrei aggiungere, intanto ciao Gianni, ti ho sentito, è stata la modulazione che stavi chiudendo, ti saluto se sei all'ascolto. Sì, io aggiungerei anche altri cantanti, ce ne sono tanti, ce ne sono, oltre a Maria Carta, Anna Maria Puglioni, poi Elena Nedda, tutta gente che sa cantare veramente. Poi parlando di uomini, non per niente abbiamo noi il grandissimo tenore sardo, Francesco De Muro di Porto Torres, che ormai si è affermato, è affermatissimo in campo mondiale, considerato uno tra i tenori più forti del mondo, per cui ce ne sono qui talenti in Sardegna, ne abbiamo tante, solo che purtroppo